140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Cinema e musica nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Cinema Odeon, Milano. Tre sorelle, mamma, nonna, una bizzarra badante in Pazze di me di Fausto Brizzi, Francesco Mandelli e, finalmente al cinema, Loretta Goggi. È stata veramente comica, perché io quando mi hanno detto che appunto Fausto Brizzi voleva conoscermi, incontrarmi, eccetera, in un bar a Roma, io ho pensato a scherzi a parte, ho detto questi stanno preparando qualche cosa di... mi devo preparare qualche battuta, tipo iene, queste cose che non mi faccio prendere di sorpresa. Invece era proprio lui. E oltre a chiedermi di fare del cinema, cosa che appunto per me è una cosa assolutamente nuova, mi chiedeva di fare un ruolo all'opposto di quello che io penso di essere, quindi una donna di ferro, un sergente di ferro con figli, con una rigidità morale di tutti i tipi, con naturalmente delle pecche, perché per mantenere questo ordine famoso in questa famiglia dove tutto doveva essere pianificato e regolato, qualche sfumatura dei figli se l'è persa e quindi qualche guaio a livello psicologico lo ha creato, non volendo, come tutte le mamme, perché nessuno lo fa con l'intenzione di far del male, però ho dei begli articoli, diciamo, come figlioli. Ah, Andrea, domani ti devi ricordare di portare le urine della nonna al laboratorio per le analisi. C'è anche la lista della spesa e se passi alla posta, per favore, ricordati di ritirare le 4 multe di Federica. Ma veramente? Domani dovevamo andare al mare, signora. Niente mare. Personaggio che si trova in qualsiasi tipo di situazione, tra esplosioni, guai, insomma, sì. È stato divertente girare? È stato molto divertente girare, è stato anche una sfida un po' con me stessa, perché in tanti casi mi avevano chiesto se volevo la controfigura, e allora io chiedevo sempre, ma gli altri ce l'hanno? Ma no, gli altri non ce l'hanno, allora nemmeno io, come se fossi ventenne o trentenne o cose del genere. E poi sto benedetto fucile subacqueo che non ci volevano mettere la sicura, io ero terrorizzata di beccare o il piede di Francesco o il piede di Maurizio Micheli che stavano vicino a me, perché lo devo tenere basso per sicurezza, ma i piedi erano lì. Quindi, insomma, un pochettino di disavventure, guidare una Diane che si accende al contrario, cioè si accende come si spegne, e la marcia avanti non è così, perché quella è la marcia indietro. Sai le Diane degli anni Ottanta? Non so se qualcuno degli ascoltatori se le ricorda, diciamo. E quindi io ho avuto un'esperienza con questa macchina terrificante, che le bambine che stavano in macchina, come ti prego, mamma, ti prego, stai attenta, metti il piede sul freno, accendi, frena, mamma, parti. È stato molto divertente. La fan dice che Loretta sa fare tutto, però questo lo dice la fan. Ci sono delle battute nel film che riportano un po' gli anni Ottanta, addirittura c'è una battuta deliziosa nella quale dice: forza bambini, andiamo tutti a vedere Fantastico. Sì. È bellissimo. Eh sì, è stato voluto proprio da Fausto, come pure la prima che è stata fatta al Teatro Sistina, perché lui ha detto è un cortocircuito perfetto, Loretta Goggi che fa la prima di un film al Sistina, che è il suo teatro per elezione, diciamo, no? Il teatro di rivista, e quindi quella cosa l'ha messa apposta per me. Che bel periodo, Pazze di me, e poi ci siamo divertiti come dei pazzi a guardarla in tale quale, e poi Gypsy, che è un impegno grosso, sì, a teatro, tanto. È un momento bello di rinascita? Sì, credo di rinascita e di ritrovamento, si può dire? Perché qualche volta uno nasconde delle cose in un posto, le tiene in un cassetto e pensa di non doverne più avere bisogno. Poi per caso lo apre e vede che dentro ci sono ancora cose belle da poter fare, da poter mettere, da poter usare, e questo è stato un po' per me tornare a lavorare dopo naturalmente la scomparsa di mio marito, quando veramente il cassetto era pieno di cose da buttare. E comunque se i registi italiani adesso si fanno sfuggire Loretta Goggi, sono dei pazzi. Ma che dite? No, questo è troppo da fan, questo è troppo da fan. Beh mamma, puoi evitare di mettermi in imbarazzo davanti a tutti a tavola? Ma dai, Giulia è una di casa oramai. È giusto anche che conosca i tuoi difetti, no? Ma anche no. Che difetti? Prego, ce n'ho un elenco. Te ne dico soltanto uno. Faceva sempre la pipì a letto. Allora, chi si rivede? Dopo molto tempo, eh? Dopo molto tempo, dall'ultimo film, come mai sei mancato così tanto dalle... No, no, Francesco, lo so che la domanda è banale, ma è un po' il tuo momento? No, ma spero di no, perché quando uno c'ha il suo momento vuol dire che poi non è più il suo momento e se ne dimenticano tutti. Diciamo che per una serie di fortunate coincidenze quest'anno sono usciti due film, diciamo così, molto ravvicinati, e li ho girati anche molto ravvicinati perché ho finito di girare I soliti idioti e ho cominciato subito Pazze di me. La cosa secondo me, cioè la cosa che mi fa piacere, che mi rende orgoglioso, è essere così in due film molto, molto vicini ma molto diversi fra loro, cioè quindi mi piace questa confusione forse che si crea anche nel pubblico, no? Cioè dopo I soliti idioti, che è un film esagerato, caricaturale, grottesco, fare una commedia così pulita, raffinata e con un personaggio in cui era molto difficile trovare la misura, perché Andrea deve essere veramente misurato, perché le esagerate sono chiaramente le sorelle. Questo film sembra già pronto o per un sequel o per una serie, tu saresti disponibile? Wow, certo. Sì, assolutamente. Ma una serie non ci avevo mai pensato, sarebbe bello però. No, io ho provocato Fausto e mi ha detto effettivamente sì. È vero, ci è vero. Ha pensato. Ah, ci ha pensato, perché Fausto c'ha una capoccia, quel ragazzo. E, no, no, assolutamente disponibile. Guarda, Fausto, insomma, se mi dovesse chiamare domani a fare il metalmeccanico, io ci andrei. Film girato a Cinecittà, situazione difficile. Com'è stato girare, anche fisicamente, addentrarsi a Cinecittà? Ma bella sta domanda, perché è molto emozionante entrare a Cinecittà in questo momento, e le emozioni sono mischiate, perché da un certo punto di vista c'è un fascino pazzesco, ma è come l'impressione che qui siano successe delle cose incredibili e che adesso non succeda più niente. E se ci pensi è esattamente la metafora del nostro paese, cioè tu entri a Cinecittà e ci sono ancora questi, cioè c'è ancora, voglio dire, lo stabilimento 5, che era quello di Fellini, il teatro 5, e però è un po' decadente, un po' così scrostato, no? E però ti sembra di veder passare da un momento all'altro, non so, Mastroianni o gente vestita da antico romano, perché si giravano i Colossal, però poi vedi gli alberi con le radici che escono nell'asfalto, tutto sconnesso, tutto un po' decadente, tutto lasciato andare. Ed è, a me piace molto, cioè è un insieme di sensazioni che non ti lasciano indifferente, quindi è bello perché c'è questa sorta di malinconia legata al cinema. Da un altro punto di vista è drammatico, perché vuol dire che le cose non sono più come erano 30 o 40 anni fa, purtroppo. Ma ti ripeto, secondo me è un'ottima metafora del nostro paese. Voi mi avete rovinato la vita, da sempre. Ma cosa dici? E come? Come? Vuoi un esempio? Cioè, io ho dovuto scoprire a 14 anni in campeggio che i ragazzi fanno la pipì in piedi. Ma secondo te è normale? Ma ti prego, ma non fare il bambino, non è grave. E poi seduti si è più comodi. Senti mamma, basta, basta, guarda, veramente sono stanco. Papà aveva capito tutto, e in anticipo, perché quello stava avanti, era un genio. Va bene che sei nervoso perché Giulia ti ha lasciato. Attenzione, però... attenzione. Giulia non mi ha lasciato. Mi ha chiesto di scegliere, o lei o voi. E non è la stessa cosa. Ma uno non può chiedere a un ragazzo di lasciare la sua famiglia. Ti sei fatto adottare da Loretta Goggi? Wow, sì, ma magari mi adottassi. Ma la Goggi è una roba incredibile. Cioè, è una forza della natura. È una che ancora ha l'entusiasmo di una diciottenne in questo lavoro, che ha... È una che con grandissima umiltà impara tutti i giorni, e spero di poter aver imparato io tante cose da lei. Touring Club Italiano, Milano, Maestro Record, prima orchestra a 16 anni, a 29 la prima della Scala. Ora Daniel Harding va al cinema, La Scala, in diretta in tutta Italia. I think it's something very interesting, something... I'm curious. I know that there have been, credo che sia qualcosa di molto interessante. Sono molto curioso. C'è qualcosa che il pubblico si perde durante un concerto. Quello che proviamo noi a stare fisicamente al centro della scena. L'esperienza fisica e viscerale di fare musica. But to give people sometimes the opportunity to feel as if they are right inside. Dare per una volta al pubblico l'impressione di trovarsi al centro della scena, con le immagini enormi e ricche di dettagli sul grande schermo del cinema, la qualità del suono dei sistemi audio più moderni, credo sia entusiasmante. L'Italia è grande e quindi molte persone sono anche fisicamente lontane dalla Scala. I think it's a fantastic thing that that people, no matter where they are. Penso che sia una cosa fantastica che il pubblico possa avere accesso agli spettacoli della Scala o ad esempio del Metropolitan di New York, dovunque la gente viva. We just have to all of us be careful that what this does is encourages. Dobbiamo solo fare attenzione che questo incoraggi la gente a essere più entusiasta nei confronti della musica dal vivo. Che abbia voglia anche di assistere a concerti nelle loro città, nei piccoli teatri, anche se sono meno eleganti o prestigiosi. Credo comunque che portare grandi spettacoli in ogni angolo del paese, anche i più difficili da raggiungere, sia davvero una meravigliosa idea. All over the country is a wonderful idea. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter giorno per giorno tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Vasco la chiama la Ferrari del rock. Clara Moroni da anni accompagna il Blasco e ora torna da solista con l'album Sono quello che sono. Secondo me non è facile nell'arco della vita arrivare a un punto dove si ha almeno una idea chiara di quello che si è già un punto d'arrivo. Dopo lunga e travagliata fase analitica su se stessa su quello che succede intorno a me, posso dire di avere più chiaro sicuramente quello che sono, o comunque di avere più chiaro quello che non sono, e quindi ho messo nella mia musica delle cose anche più interiori, ed è questo quello che voglio dire alla gente, insomma, il fatto di andare a cercare dentro se stessi quello che è più vero, quello che più che ci serve di più anche per essere felici, cioè di eliminare tante cose in un momento di crisi come questo, anche l'eliminazione del superfluo per andare a cercare le cose più vere che ci fanno veramente felici. Sono quello che sono. Ma tu hai sempre avuto questa immagine e la percezione di una donna estremamente rock, una bambina cattiva, ti posso citare. Sì. Non ti sei mai sentita un po' prigioniera, un po' obbligata a essere così? Beh, sì, ovviamente essere sempre all'altezza di quello delle aspettative degli altri e anche delle proprie aspettative non è facile. Però diciamo che è un'ottima palestra, cioè trovo che poi alla fine è molto più comodo abbandonarsi, lasciarsi andare, dire oddio sono debole, no non ce la faccio, e invece poi alla fine è proprio il momento in cui uno pensa di non farcela, di tirare fuori l'ultimo sforzo e farcela, e quindi anche con la cattiveria, anche perché poi secondo me non sono completamente contraria al fatto del il femminile e il maschile, cioè non, si comporta come un uomo, si comporta come una donna forte, così come un uomo si comporta come un uomo forte, un uomo debole o una donna debole, insomma. Non mi piace quando dicono è forte come un uomo. No, io sono forte come una donna. Ho perso il mondo intero quando ho perso. Che viaggio si fa in queste tracce di questo EP? Che cosa ci racconti, oltre al fatto che sai quello che sei e ce lo dimostri in musica? Ma io quello che cioè, più che raccontare me, cioè racconto me per dare anche una forma di cioè per far vedere che insomma ce la si può fare, ecco, anche nei momenti più bui cioè si può arrivare a dipanare la matassa che non si può sciogliere della propria esistenza, ci si può capire, ci si può amare per quello che si è, si può sempre ricominciare in qualche modo, non è importante saperlo a priori, ma l'importante comunque è mettersi nella via, cioè non si sa bene che è un vicolo buio, però è meglio entrarci e affrontare il buio senza aspettare che arrivi qualcuno dall'alto a farci luce, che è una cosa a cui non credo. E quindi niente, ci racconto che bisogna avere coraggio e perseveranza e non arrendersi mai. Ci si può amare, hai detto, però si può anche amare perché c'è dell'amore. Sì, sì, no, certo, anzi forse per la prima volta riesco a parlare in una maniera un po' strana, un po' mia dell'amore, però sì, cioè, poi alla fine tutto è amore, anche c'è l'amore appunto per gli altri, per tentare di fare qualcosa per gli altri, cioè per aiutarli anche con una parola appunto, col proprio esempio. Secondo me poi l'esempio personale è sempre quello più penetrante e più dirompente, cioè bisogna dare più che parlare, bisogna dare buon esempio, e quindi meglio dare il buon esempio. La gente Ma la tua vicinanza con Vasco, per te a questo momento, punto della vita e della carriera, è una gioia, un limite, un'etichetta? Che come la vivi adesso? Ma io non ho problemi, voglio dire, cioè non è che non ho un passato pornografico da nascondere, quindi anzi, cioè voglio dire, ho la fortuna di far parte della storia della musica italiana, comunque, perché Vasco fa parte, è la storia, cioè rimarrà nella storia della musica italiana, non soltanto perché come autore dei testi, praticamente ha scritto su tutto e di tutti. Nel live io faccio tre pezzi suoi e ho preso tre pezzi che parlano di cose di cui vorrei parlare anch'io, però lui le ha scritte talmente bene, ovviamente, perché è Vasco Rossi, che mi sembra quasi inutile stare a girare intorno, cioè canto, cioè metto su di me i pezzi che ha scritto lui, come tipo canzoni tipo Non appari mai, che parlava ormai 16 anni fa di cose talmente che sono ancora, poi ahimè, attuali. E no, non so, io sono molto contenta, insomma, sarebbe come dire no, mi è spiaciuto aver lavorato con o lavorare con Springsteen o aver fatto un film come Il Padrino, cioè è la mia storia, sono quello che sono, anche e soprattutto grazie a questo, che è un'esperienza che mi ha, non so, mi viene in mente devastato, però in senso positivo, no? Nel senso che sono state emozioni veramente forti e che spero di rivivere, E niente, poi etichette, viviamo in un mondo di brand, di marchi, e quindi meglio quell'etichetta lì che un'altra. Insomma. Clara, se ti dicesse, visto che adesso ha annunciato di tornare in tournée, parti con me, tu prendi, vai subito? Assolutamente, assolutamente sì. Io anzi, spero che lo faccia, spero che non cambi niente, spero che tutto sia come sempre. Perché sì, è bello cambiare, però certe cose è bello che rimangano anche come sono. Perché insomma un po' di in questo marasma che sta succedendo, in questo smottamento generale, qualche punto fermo nella vita ci vuole. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.